c'è un amore. Ora te lo voglio far provare. Ti voglio far provare come nasce un amore. Forse tu non lo sai. Piano piano ti sfiorerò e le labbra ti toccherò. E vicino, vicino ti starò. È come una farfalla che si posa su un fiore. Io ti accarezzerò. Piano piano ti parlerò. Piano piano ti troverò. E nessuno ci sentirà. E nessuno ci troverà. Mai, mai, mai più. Così, senza rumore, così nasce un amore. Forse tu non lo sai. Piano piano ti sfiorerò e le labbra ti toccherò e vicino, vicino ti starò. È come una farfalla che si posa su un fiore, io ti accarezzerò. Piano piano ti parlerò, piano piano ti bacerò e nessuno ci sentirà e nessuno ci troverà. Mai, mai, mai più. Così, senza rumore, così nasce un amore. Forse tu non lo sai.